Incontri di Gianfranco Fabi. Sì, viaggiare evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente senza fumo con amore. Con le note di Lucio Battisti, mi sembra, Sì, viaggiare, questa canzone molto nota. Ringraziamo Luisa Todini di essere con noi. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica, Luisa Todini. Buona domenica a voi e buon pomeriggio, grazie. Sì, viaggiare, una canzone che appunto ricorda un po' la passione del viaggio. Le piace viaggiare? Le capita molto spesso di viaggiare? Mi piace molto viaggiare, sono un po' una nomade anche di testa, da sempre ho avuto questa opportunità, viaggi brevi e viaggi lunghi, e se viaggiare ricorda anche un po' la costruzione delle strade, che è un po' il leitmotiv della nascita dell'azienda di famiglia. Poi abbiamo diversificato in altri settori, ma insomma si viaggia con i piedi sulle strade, con le macchine, ma sulle strade. Quindi Luisa Todini, presidente di Todini Costruzioni, una delle maggiori imprese italiane nel settore appunto dei lavori pubblici, delle costruzioni, delle strade, e adesso fa parte del gruppo Salini, che è ancora più grande come impresa. Forse siete al primo posto, quasi. Siamo tra i primi tre posti, la proiezione è che cresceremo ancora, lavoriamo in 40 paesi al mondo, come lei ricordava l'azienda di costruzioni all'interno della holding che è ancora di mia proprietà, il gruppo Todini, è all'interno del gruppo Salini, è appunto presente in 40 paesi al mondo, abbiamo quasi 15.000 dipendenti di 67 nazionalità diverse, quindi si viaggia molto anche per motivi di lavoro, è un'azienda che sta crescendo molto e che sta facendo grandi investimenti in Italia e all'estero. Quali sono i paesi dove è maggiormente presente e anche quelli dove avete maggiori soddisfazioni? Oltre all'Italia come presenza, ma che purtroppo da tempo non dà molte soddisfazioni nel settore delle grandi infrastrutture, poi magari avremo modo di toccare questo argomento, siamo molto presenti in Africa, in Centro Asia, quindi tutta la parte delle Est Europa e Centro Asia, intendendo tutte le province dell'ex Unione Sovietica, quindi Azerbaijan, Kazakistan e quant'altro, siamo in Far East, abbiamo una presenza in Sud America, quindi siamo molto diversificati, con una politica industriale, come io racconto sempre ai vari ministri degli esteri con cui ogni tanto mi trovo a far missioni in qualità di imprenditori, anche di comitato di promozione del Made in Italy, che è il comitato Leonardo, le imprese alla fine, oltre che fare politica industriale, fanno anche politica estera, perché ponendo la bandiera italiana nei vari cantieri in qualche modo facciamo politica estera. Ma che cosa chiede a un ministro degli esteri, a un ministro dello sviluppo economico, la priorità che per un'industria come la vostra, italiana, che esporta, ma esporta il proprio lavoro soprattutto, che cosa chiedete? In Italia chiediamo che non ci siano quantomeno i bastoni fra le ruote per fare impresa, quindi la semplificazione, burocrazia che aumenta sempre più e che è una vera palla al piede, un vero dumping rispetto a quella che è la concorrenza straniera in particolare. Le faccio solo un esempio: per cantierare, tra virgolette, quindi per aprire un cantiere, nel momento in cui si acquisisce un lavoro c'è necessità di 26 firme, e tutte queste firme si ripetono ogni volta che dobbiamo essere pagati, perché noi facciamo lavori per lo Stato fondamentalmente. Quindi lei immagini che cosa significa, di difficoltà, di tempi che si allungano, e ogni volta che il tempo si allunga c'è un costo in più per lo Stato, perché non può sostenerlo l'impresa lo sostiene in quanto ha dei ritardi, ma è un costo in più per ogni cittadino. Quindi semplificazione, burocrazia, certezza del diritto e capacità di poter fare davvero impresa, come siamo purtroppo spesso in grado di fare all'estero e non troppo in Italia. Io devo dire che siamo stati tutti molto entusiasti di questo cambiamento con il governo Monti. Dopo un primo momento di grande entusiasmo, spero che non ci sia uno stop e un freno. Sto sentendo un po' di stop e un po' di freno, troppi annunci e poche cose, soprattutto sulla riduzione della spesa pubblica, perché soltanto riducendo la spesa pubblica si può investire su quella che invece sono gli investimenti. Ecco, proprio la semplificazione, la lotta alla burocrazia è uno dei temi, una delle priorità anche del nuovo presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Facciamo gli auguri a Giorgio Squinzi e a tutta la squadra, di grande valore, devo dire, con qualche quota rosa in più rispetto alla precedente, quindi sono particolarmente felice. Beh, aveva una maxi quota rosa, sì, quella precedente. È vero, il presidente valeva per tanti di Emma Marcegaglia, sì. Ecco, quindi ecco, questa lotta alla burocrazia è fondamentale per avviare l'Italia su un percorso di crescita, su un percorso di ripresa. E c'è anche molto da fare su questo fronte. Proprio nei confronti dei paesi stranieri notate questa differenza, la differenza di paesi che magari, ecco, noi li consideriamo un po' emergenti o quasi arretrati, ma possono darci degli esempi? Io le faccio sempre i numeri. Se per cantierare un grande lavoro in Italia c'è necessità, oltre che delle 26 firme, di 147 giorni di media, e in Kazakistan ne necessitano soltanto 7, già questo numero ci dà l'idea di che cosa significano i tempi e i costi. Parlo di un settore come quello delle costruzioni che conosco di più, ma io ho un'azienda che è attiva nel settore delle energie rinnovabili, per esempio, in cui oggi c'è un nuovo decreto che speriamo possa far continuare la vita di questa grande filiera senza gravare troppo sulla bolletta di noi italiani, perché il contenimento delle spese è per tutti. Però anche lì io all'interno di tutto il comparto delle rinnovabili, per esempio, non mi sono avvicinata all'eolico perché seguo tutto il resto, proprio perché le autorizzazioni necessarie per i campi degli eolici sono talmente farraginose che fanno desistere qualsiasi tipo di investimento, perlomeno rispetto a quello che è stato il mio piano industriale. Quindi magari non si dà spazio ad una filiera che può crescere proprio per la paura di avvicinarsi a quelle che sono le autorizzazioni, la burocrazia e anche le problematiche ambientali, insomma, relative a tutto. Ecco, quindi la green economy, come viene chiamata, comunque è un punto di successo, un punto che può essere di sviluppo, ma anche questa viene frenata dalle procedure? Non voglio dire che le procedure siano il solo male dell'Italia, perché il problema dell'Italia è che l'Italia non cresce da almeno un decennio, e la decrescita, la mancanza della crescita è dovuta anche alla burocrazia, ma è dovuta a tanti altri fattori. Il primo fra tutti è l'enorme debito pubblico che continua a crescere, l'incredibile spesa pubblica che continua a crescere, che nessuno è riuscito in questo momento a mettere uno stop. Io mi auguro che il governo Monti riesca invece a frenare questo debito per poter reinvestire nella crescita, perché altrimenti la ripresa che ci sarà, di cui tanto si parla nel 2013, non vedo su quali basi possa interessare l'Italia se oggi siamo totalmente fermi nei consumi, anzi con una regressione, come ci ha indicato più volte il ministro Passi. Io sono seriamente preoccupata. Io sono un imprenditore che ha possibilità, attraverso le sue imprese detenute direttamente e indirettamente, di lavorare all'estero. Non voglio scegliere di lavorare all'estero, io voglio scegliere di continuare a rimanere in Italia, però ne devo avere i presupposti. Ecco, lei è anche presidente del Comitato Leonardo per la promozione dell'immagine italiana all'estero, magari ne parliamo nella seconda parte. Sì. Concludiamo questa prima parte proprio parlando dell'Italia, parlando di questo paese. Lei appunto ha accennato i problemi, la semplificazione, la burocrazia, il debito pubblico, la spesa pubblica. Ecco, sul fronte della spesa pubblica si può fare, ci sono. Lei vive a Roma, vive al centro appunto degli affari anche politici, ha dirette conoscenze e competenze con la realtà politica. Si può tagliare la spesa pubblica? Ma ci sono sprechi ovunque. Certo che non solo si può, ma si deve, e lo si deve fare con un colpo d'ascia. Non si deve aver paura del consenso che non c'è più. Oggi si deve fare per poter investire in altro. Vede, quando oggi si dà tutta la colpa all'evasione fiscale, è vero che c'è molta evasione fiscale, ma io credo che molti italiani si chiedano dove vadano a finire i recuperi dell'evasione fiscale, se vanno in un pozzo senza fondo, come purtroppo si ha la sensazione, o se vanno veramente ad essere investiti sulla crescita. L'Italia è incredibile, cioè, voglio dire, il parametro è presto fatto, è uno dei paesi che ha il tax rate più alto, quindi la fiscalità più pressante nei confronti, e con la più alta evasione. Chiediamoci perché, chiediamoci come poter andare ad eliminare l'evasione, ma anche come andare a eliminare questa incredibile pressione fiscale. Le faccio un esempio per terminare questa prima parte. Quando un dipendente riceve in tasca 100 ma costa 220 o 230 all'impresa, chiediamo se non sia più giusto dare qualcosa più in tasca al salariato e togliere qualcosa in più alle tasse, il famoso cuneo fiscale. Fiscali, io credo che sia fondamentale oggi anche per rilanciare i consumi e dare respiro alle famiglie. L'Italia ha uno dei salari netti più bassi per i lavoratori, è uno dei costi del lavoro più alti da parte e parliamo di chi ha uno stipendio. Poi dobbiamo pensare a chi non ce l'ha lo stipendio, e quindi cercare di poterli reimmettere nel percorso lavorativo. Quando si parla di flessibilità, la flessibilità è una virtù in un paese che cresce, altrimenti diventa un precariato cronico. Incontri. A Ancora con le note di Lucio Battisti, Sì viaggiare, salutiamo Luisa Todini ancora con noi, buongiorno Luisa Todini, e riprendiamo il nostro cammino. Stiamo concluso la prima parte parlando dell'Italia, un'Italia che deve crescere e solo la crescita può risolvere i problemi. Ecco, non ci sono bacchette magiche per la crescita, però ci sono sicuramente delle ricette che si possono dare. Che cosa pensa che sia, abbiamo parlato appunto di semplificazione prima, di riduzione della spesa pubblica, il governo può fare ancora e deve fare ancora di più per la crescita. Luisa Todini. È in assoluto il problema fondamentale, perché un paese che ha vissuto in maniera così importante la crisi, siamo stati forse più fortunati di altri perché non abbiamo dovuto nazionalizzare le banche, abbiamo potuto affrontare questo anche a fronte di un debito privato molto più basso rispetto ad altri paesi. Però toccando per esempio il problema della questione del debito privato, il fatto che l'85% più o meno degli italiani è proprietario della casa, io sinceramente non riesco a capire perché questo accanimento, passatemi il termine, su un bene di proprietà che riguarda tutti, non soltanto le fasce più alte. Confindustria, ancora prima del rinnovo di presidenza, aveva proposto per esempio una patrimoniale, si era dichiarata d'accordo, una patrimoniale sulle fasce più alte. Io sono una privilegiata che gode di quanto ereditato e di quanto ha fatto poi dopo la morte di mio padre, che purtroppo ormai sono passati già 11 anni, però sono pronta a fare la mia parte, cioè coloro che hanno di più sono assolutamente pronti a fare la propria parte, ma quando parliamo dell'85% di chi è proprietario di casa, parliamo anche di persone che hanno risparmiato tutta una vita per poterla fare, e la casa è tassata, permettetemi l'espressione, quando la vedo, quando l'annuso, certo, quando la compro, quando la mantengo. Io non credo che questo possa aiutare molto. Anche perché c'è un'incertezza poi di fondo di quanto si pagherà. Totale. Sembra che si dovrà pagare, esatto, tantissimo, e quindi anche... E c'è un terrorismo psicologico anche su tutto questo, che ha depresso i consumi più immediati di vita corrente e ha depresso il mercato della casa, del real estate, delle infrastrutture in generale, ma soprattutto del real estate, che è quello che dovrebbe essere più anticiclico in questo caso, perché non parliamo solo di grandi infrastrutture che non possono essere così anticicliche perché hanno, certo, tempi di realizzazione lunghi, ma invece il piccolo artigiano, l'idraulico, il falegname che lavora, quello sì che dà un volano diretto o indiretto di grande occupazione. Quindi mi sembra che questo accanimento su un bene considerato primario in Italia non so quanti frutti potrà portare. Si tratterebbe di ridare maggiore fiducia nel futuro, maggiore fiducia anche nelle persone, su questo costruire, però non è facile. Ma soprattutto immaginare delle, adesso non voglio entrare nei tecnicismi di domenica, certo, pomeriggio, però immaginare delle agevolazioni per poter garantire un interscambio soltanto di un bene primario come è quello della casa, che poi possano creare un volano a fronte non di un mancato gettito per lo Stato, ma di una creazione di maggior gettito proprio perché si rialimenta, certo, il lavoro. Oggi il problema è questo, insomma, i dati dell'ANCE che dichiarano quante perdite di occupazione c'è stata e di lavoro sono sotto gli occhi di tutti. Ecco, torniamo al tema della fiducia, però guardando un po' all'esterno. Abbiamo, sì, parlato del Comitato Leonardo, lei è presidente di questo Comitato Leonardo. Che cos'è? Lo spieghiamo un attimo a chi ci ascolta. Il Comitato Leonardo è un comitato di promozione di chi fa attività di imprese in Italia con una proiezione all'estero. Fu ideato nei primi degli anni 90 da Sergio Pininfarina e Giovanni Agnelli, poi con l'apporto di Confindustria e Dice. Si è sviluppato molto in questi anni, ogni anno veniamo ospitati dal Presidente della Repubblica per premiare le imprese eccellenti, gli imprenditori eccellenti, e da tempo ormai dando anche premi Leonardo International agli imprenditori stranieri che promuovono l'Italia e che investono in Italia. Questo è un altro dei problemi, i famosi IDE, cioè l'attrazione di investimenti diretti dall'estero, che poi creano una filiera di consumo di Made in Italy. L'Italia è gli ultimi posti come nella classifica. L'Italia purtroppo non lo è stata fino a qualche anno fa, ora perde continuamente posizioni anche per i problemi di prima, la legalità, la burocrazia, le lungaggini e quant'altro. Ora l'Italia continua a essere un paese molto attrattivo per chi ci guarda dall'estero, però poi ci sono dei deterrenti che purtroppo bloccano. Allora noi promuoviamo anche questo, abbiamo premiato grandissimi imprenditori giapponesi, brasiliani, cinesi, russi, quest'anno Barney Mittal, che è una delle più grandi aziende indiane, i paesi BRIC, tra cui anche l'India, sono tra i paesi non più emergenti, ormai emersi, che possono rappresentare un maggior potenziale, un maggior sviluppo. Noi cerchiamo in maniera più rappresentativa, non siamo molto ricchi perché viviamo di quelle che sono le quote dei nostri associati, ma particolarmente rappresentative, e quindi cerchiamo di promuovere quella che è la nostra immagine e di creare un volano attraverso, ecco, un'immagine questo. Italiana che non è solo il bel bello, il lusso, la moda, ma che anche la qualità, l'innovazione, la capacità, la nanotecnologia, la meccanica, la farmaceutica, le costruzioni stesse, certo, il know-how, la progettazione, tutto quello che non è il classico Made in Italy, che come lei giustamente ricordava, generalmente si pensa alla moda, ai profumi, all'agroalimentare, che sono altrettanto certo, Made in Italy di grande successo, ma c'è un Made in Italy molto più ampio che crea poi una cassa di risonanza con tutto il resto. Io vorrei citare la frase di un nostro premiato international, Misha Kuznirovich, proprietario dei magazzini GUM. Per chi conosce la Russia e Mosca e sa cos'è la Piazza Rossa, c'è questo grande insediamento che si chiama Bosco dei Ciliegi, gli ex magazzini GUM, in cui tutto respira Made in Italy, tutto racconta Made in Italy. E lui disse una frase durante un nostro meeting, in cui disse: per noi russi, come per il resto del mondo, comprare un prodotto italiano non è soltanto comprare quel prodotto, ma è comprare un vostro pezzo di storia e un pezzo del vostro territorio. Ecco, questo è un potenziale enorme che non dobbiamo mai disperdere, che è inimitabile da parte di qualsiasi cinese. Ecco, lei ha parlato di Russia, lei è anche co-presidente per l'Italia del foro di dialogo delle società civili tra Italia e Russia. Sì. Che giudizio dà della Russia in questa fase? È veramente un paese che può dare grandi prospettive ai rapporti anche commerciali con l'Italia? È un paese che sta avviandosi verso una realtà democratica, tra virgolette, perché poi sappiamo comunque qual è la realtà, anche la difficile transizione dalla vecchia Unione Sovietica a un nuovo paese così complesso e così grande. Guarda, io sono stata la prima volta, ero insomma, appena adolescente in Russia nel 1979, la Russia di Brezhnev. Ci sono tornata negli anni 90 per motivi di lavoro e poi ogni anno ho occasione di andarci anche per motivi istituzionali. È una Russia che ha mantenuto lo zoccolo duro della grande forza, del grande senso di patria e di nazionalismo, con una transizione difficile, perché dopo tanti decenni di Unione Sovietica non era facile. Io credo che l'era Putin, che in fondo è stata ininterrotta, no, per tutti questi anni, stia cominciando a creare quella classe media che poi dà l'idea di un paese che è in transizione e che si amplia, con una difficoltà naturalmente ad avere una transizione immediatamente democratica, ma che io invece sento in tutti questi anni di presenza. La Russia poi non è più soltanto Mosca e San Pietroburgo, è una Russia ormai estesa a tutte le province, che comincia a avere dei centri culturali, sociali ed economici di interesse in tutta la sua ampiezza. Quindi anche questo devo dare atto a tutti questi anni di presidenza Putin, che c'è stato un grande lavoro. Poi le elezioni hanno dato i loro risultati, l'economia galoppa e galoppa anche a favore come partner commerciale dell'Italia, quindi questo non può che farci piacere. Due parole sulla Cina, che conosce bene altrettanto. La Cina la conosco meno della Russia naturalmente, è un paese che ha cominciato a sentire un pochino di rallentamento, perché insomma la crisi poi arriva ovunque, un paese forse il paese più difficile tra quelli che conosco anche a livello di rapporti commerciali. Però è un paese che non si può combattere ovviamente, ma di cui si può prendere soltanto la possibilità di attrarli attraverso il nostro know-how. Noi possiamo raccontare un'Italia che è molto apprezzata in Cina, e forse lo potrebbe essere ancora di più, non abbassando la guardia su quella che è però un po' l'impostazione della Cina di molto spesso entrare in quelli che sono i grandi trattati internazionali acquisendone i diritti e non i doveri. Faccio riferimento a quando entrò nel 2001 nel WTO, e troppo spesso poi la Cina cerca di agire con un'eccessiva prepotenza, passatemi il termine, certo, però anche loro stanno imparando la democrazia. Ecco, lei appunto ha avuto anche nella sua esperienza un incarico, una legislatura al Parlamento europeo. Sì, ormai tanti anni fa, quasi dimenticata. Ecco, ma con questo entusiasmo che mette nel fare le cose, nel fare l'imprenditrice, non ha pensato di entrare in politica? Ma la mia esperienza politica è stata nel 94, quindi veramente tantissimo anni fa, quando ancora mio padre e mio cugino erano in azienda e altro. Poteva permetterselo forse. Sì, ecco. Potevo permetterlo, poi però per scelta sono tornata in azienda. Devo essere sincera, ho avuto anche altre occasioni particolarmente interessanti di tornare in politica, però ho sempre scelto invece di continuare a fare l'imprenditrice. Poi nella vita sono diventata, il mio più grande successo è la mia figlia che ha 9 anni, per cui insomma dedicarsi ad una figlia è decisamente più interessante che far politica. per ora è la cosa più importante oltre all'azienda. E comunque sono convinta che la politica la si faccia tutti i giorni, certo, nelle associazioni come nelle attività imprenditoriali. Non c'è bisogno di essere presenti in un Parlamento, in un consesso parlamentare per far politica. C'è qualcosa che avrebbe voluto fare da quando era piccola e che non è riuscita a fare, che le è rimasto come una, quasi come un desiderio nascosto? Ma se vogliamo essere un po' più frivoli, così il mio grande sogno è fare l'attrice di teatro, però poi la politica in qualche modo è stato un palcoscenico, per cui insomma quello me lo sono tolto, lo sfizio tra virgolette. Una cosa, no, ho avuto un'esperienza nelle missioni in India per qualche mese, e quello insomma mi ha sempre attratto molto. Cioè, mio padre mi ha insegnato che se si fanno le cose è in qualche modo per condividerle con gli altri, per metterle in comune. Poi quando è scomparso mio padre ho avuto possibilità di costruire un pezzo di un ospedale dedicato nella City Hall dedicata a Papa Paolo VI per i bambini malati di lebbrosi, quindi anche questo in qualche modo sono riuscita a perseguirlo di desiderio. Poi quello che uno fa per gli altri di solito non lo racconta, lo fa, certo, e spera che possa essere. Però è anche importante raccontarlo e dire che appunto che fare il bene è qualcosa che fa parte anche del proprio dovere, non perdere le occasioni di poter fare del sì, bene. Questo nelle piccole come nelle grandi cose, ognuno relativamente a se stesso. Spero di poter trasmettere questa educazione anche a mia figlia e spero che, e questo sicuramente forse il più grande successo che uno può raccontare a se stessi e agli altri. Ecco, speriamo che sia anche questo il messaggio, di fare ognuno il proprio dovere nel proprio posto, ma cercando di non perdere le occasioni per farlo sempre di più e per appunto anche in un certo senso propagandare, testimoniare. Sì, diventa una bella contaminazione poi. Grazie mille, grazie a Luisa Todina di essere stata con noi questa domenica, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento è per domenica prossima.